difficile, lo so, però è meglio. Musica allo stato puro, ti ripigli di sicuro. Sarebbe bello essere nuvole, avere un mondo da inseguire, fermarsi solo un attimo e se c'è noia scomparire. È il programma col cuore di un bambino, è il cammino di Gigi D'Agostino. Musica più lenta che pace che spera, veloce poi più lenta, violenta sincera. Musica più lenta che pace che spera, veloce poi più lenta, violenta sincera. Chi viaggia poco resterà piccino. Il cammino di Gigi D'Agostino. Signore e signori, dai dai, Gigi D'Agostino. Iniziamo cammino? Beh, ci sono anch'io, eh? Ma chi è? Vai, ci aiuto. Sono Rebecca d'Alessandria. Metti il passo felino. Certo. È troppo bella. Giusto, eh? Il cammino di Gigi D'Agostino, letteralmente corretto, musicalmente perfetto. Aiuto. Chi è questo qua? Non giochiamo. No. Mi piace troppo. Vabbè, cento. Viva il lento violento. L'acetance da Vicenza. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Ginnastica mentale. Fatico molto a passare da una condizione di sonno molto protratto a uno stato di veglia totale. Ginnastica mentale. Vorrei dedicare la tua cover di De Chaffer a tutti gli amanti e sostenitori del lento violento. Bravo, bravo. sperando di trovarla su uno dei tuoi prossimi CD. Daniele, Evil Goten. Mettimi mano che sta partendo l'asse basso. Per le emozioni che mi regali tutti i giorni con la musica. Mi mandi quella sui salentini del mondo cittadini? Sì. Grazie Totò. Volevo dedicare la Passion a Noemi, una ragazza di Metaponto che venerdì mi ha fatto sognare veramente. Sì, sì. Enrico da Bernalda. Dedico un tuo brano al mio piccolo grande uomo Nicolò. Ha 5 anni e ti adora come la sua mami Elisa. Preciso. Chiudete gli occhi, lasciatevi andare. Gigi D'Agostino vi farà sognare. A coso? Bogacci via questo. Sì. Sì. Torino. Dai. Volevo salutare la comunità di Notre Dame. Can you feel it? Tipo? Me la puoi mettere per il mio amico Chianto? Chi è questo qua? Boh. Muovete. Ecco. Vorrei ascoltare Can You Feel It e dedicarla alla tribù della Riviera di Levante. Ciao, Marco. Ma ciao proprio. Il numero di telefono per mandare i vostri sms è il seguente: 333-64-67-662 333-64-67-662 333-64-67-662 di Vigevano. Volevo dire, Ambra, ti amo. Ok. Le dedico uno dei tuoi pezzi, tanto sono tutti belli. Caro Gigi, mi faresti ascoltare una canzone d'amore? La vorrei dedicare alla mia ragazza Maddi. Ciao da Tuz. Vorrei dedicare la canzone Amore vuol dire avere incontrato te alla mia bimba Marina di Peschiera Borromeo. Con amore, il tuo autista pazzo. Ma io? Gigi, per favore, suona la melodia e il testo più bello che c'è. Mi piace guardarti giocare. Hai già capito? Sì, ho capito. Francesco, da Firenze. Mi piace guardarti giocare. Mi piace vedere la gioia nei tuoi occhi.

ci fermiamo a quel minimo, riprendiamo il cammino tra qualche minuto. Si riparte. Questo è il cammino di Gigi D'Agostino. Un giorno ti chiedevo di ricambiarmi il servizio, ma fino a quel momento consideravo un po' in occasione delle mazzate mia figlia. Ciao, sono Anna da Prato. Vorrei ascoltare Il Padrino e dedicarla a Max 64 di Milano con amore. Sì, sì. Gigi, volevo dedicare la colonna sonora del Padrino Remix a Alex Gnappo Riquelme, Rocco Tom e John Mauro. Ciao da Mister Nando. Gli farò un'offerta che non può rifiutare. Volevo dedicare il cammino al mio amore insieme. Perché? Perché è con lui che ho scelto il giusto cammino per stare bene. Ti amo, Massi. Vorrei dedicare cammino al mio socino Emilio, perché sono mesi che mi cammina a fianco senza mai stancarsi. Ti voglio un macello di bene, Emi. Terrina. Mancherà come l'aria. Sono rovinato, sono sputtanato. Il sangue c'è un valore che non va. Sarà forse l'alcol che non mangio, né frutta né verdura mai. Sono eccitato al solo pensiero di toccarla come piace a lei. Con il santo padre che mi fa un gesto, mi raccomando che rimanga tra di noi. E cammino, cammino al mio giardino, è come un soldatino. Ta-ra-ta-ra-ta. E cammino, cammino, e corro come un bambino e sparo al destino. Ta-ra-ta-ra, fino all'ultimo sorso, fino all'ultimo tiro. Iniziavo il cammino quando ero in comunità. Ora che ho finito e sono di nuovo nella società, penso e cerco di vivere sereno. Mettimi un disco armonico. Bambotè. E W. Di farmi ascoltare il mix di Big City Life. Vorrei sentire Luce. È davvero bello il tuo CD. Leggere il messaggio, prego. Ciao, Marco 65. Vorrei dedicare Luce alla mia ragazza Elisa. Perché? Perché appunto. Anche perché con questa canzone meravigliosa ci siamo conosciuti. Stefano di Gamalero. Oh già. Perché dare luce del dottor Doug ad Elisa, la ragazza più buona e altruista che conosco. Un amico. Luce che si riproduce, grazie al buio che la conduce, nasce dal buio e ci conduce. Sembra banale, ma è reale. Gigi, vorrei dedicare Capriccio alla mia ragazza, perché per colpa mia fa sempre tanti capricci. Ti amo, Giulia. Pinoide. Ma chi? Non è che verresti a suonare a casa mia? Ma cosa? Pinoide. Sì, sì. Sono Patrick. Puoi mettere The Way? Certo. Ciao Gigi, grazie per averci regalato un'estate di grandi emozioni all'Altro Mondo Studios. Un grande abbraccio, Gre e Vane, da Brescia. The children woke up and they couldn't find them. They left before the sun came up that day. They just drove off and left it all behind them. But where were they going without ever knowing the way? They drank up the wine, then they got to talking. Rosario ed Angelo. Dai, dai. Vorremmo ascoltare Elisir. Vabbè, certo. Sabato 2 settembre 2006 il Cammino e Gigi D'Agostino vi aspettano a Schio. Ah. Vengo anch'io, eh. No. Dai, dai. Discoteca Seychelles, menù del giorno, piatto unico, Gigi D'Agostino. Sono Dario da Sorrento. Vorrei dedicare Bla Bla Bla alla mia pazza comitiva, appena tornata da Riccione. Grazie per i colori della serata del 22. Ma di chi? Vorrei ascoltare Bla Bla Bla. Ok. Dani da Pestum. Vorrei dire a Freddy che se non mi presenta una sua amica, gli taglio il pisellino. Gigi, sono Angelo. Volevo dedicare Star a tutti gli amici di Alba che ti seguono in ogni parte d'Italia. Vai, il coniglio grigio. Fabrizio di Piotello. Volevo dedicare Angel alla mia vita. Ma chi? Marina. E dirle che la amo tanto. Dedicare Angel al mio ragazzo Angelo e dirgli che lo amo come non ho mai fatto prima d'ora. Sì. Di sicuro. Martina 90, Fiorenzuola.

mai nulla di sbagliato in ciò che fai. Mai. A lavorare tutti, forza. Tese. Gigi, mi fai ascoltare Forrest Gump? Certo. Nicky. Grazie Gigi per l'emozione che mi hai fatto provare sabato all'Altro Mondo Studios. Sì, sì. Anche se mi hanno preso per pazzo, dato che mi sono fatto 400 chilometri per sentirti dal vivo. Ma ne valsa la pena e lo rifarei altre mille volte. Ma finisce questo o gli devo andare di gomito? Adamo, dalla provincia di Campobasso. Ciao Gigi, ho 48 anni. Sti cazzetti. E mi sballo da matti con la tua musica. Giulio. Se non ti piace così la storia, la scrivila tu, magari più bella. Magari più bella.